Questo è il cuore del quartiere Quadraro. Prima delle mura finiva Roma. E un trenino della Steffer portava o dentro la città o al capolinea dei Cinecittà. Era una borgata nata operaia, spontanea. C'erano immigrati meridionali. C'erano quelli che erano stati mandati via dalle baracche del centro per via del volere del regime fascista che doveva costruire una Roma signorile. C'erano disoccupati vari e lavoratori edili. Col piano sregolato loro, si cominciarono a costruire ste casette basse, magari con l'orticello. In fondo, a Via degli Arvali c'era il Palazzo dei Numerosi. Si chiamava così perché Mussolini ci aveva messo i coniugi con i 10 figli a carico. Ma le famiglie in genere vivevano dentro una stanza, senza luce. E per bagni ci avevano i pozzi neri. Per vie poi c'erano i nasoni. L'acqua era così fredda, ma così fredda che i ragazzini gli facevano bagnare i polsi prima di beve. Così dicevano che non si sentivano male. Tutto intorno era prato, dove tra un cratere e un altro delle bombe s'annava a cercare la cicoria. E poi gallerie, cave di pozzolana, grotte, cunicoli, anfratti. De fatti, per questo il console tedesco diceva che se te volevi nasconna a Roma esistevano solo due posti: il Vaticano o il Quadraro. I tedeschi questo lo chiamavano il nido de vespe. E in effetti gli si dava filo da torce. Qui a Centocella, a Torpignattara, al Quarticciolo, s'era antifascisti. S'era antifascisti per natura, per fame, per solidarietà con i poveracci. S'era antifascisti per politica, per religione. Ne sa qualcosa Don Gioacchino Rei, il parroco che per salvare i quadraroli n'ha presi pochi dei sganassoni dagli squadroni. Ma s'era antifascisti pure per coraggio, per dileggio, per senso di giustizia. Qui Roma resisteva. Chi unendosi alle brigate partigiane, che a Via Tuscolana, a Centocella, a Prenestina, mettevano gli chiodi per fermare i camion tedeschi che andavano a rifornire i compari ad Anzio? Chi cade derisione? Che tipica voi dei novantri. Infatti, quando lo sbarco alleato fallì, sui muri comparve la scritta: «Americani, tenete duro, che presto vi verremo a libera!» Beh, qualche fascista vero al Quadraro girava pure, e non era visto dei buon occhio. Nessuno gli parlava. C'è stavano i bulletti dei ronde, qualche infame che faceva la spia, ma camera di più che per bisogno che per convinzione, per capisse. Ce n'era uno che lo stesso figlio sotto Mussolini lo chiamava Benito, dopo la liberazione Bruno. Poi a Via dei Lentuli, voi non lo sapete, ma c'è una rarità. C'è sta una fila di ginkgo, il più antico degli alberi. C'è sta qui sulla terra dall'epoca dei dinosauri e dicono che le sue foglie a ventaglio siano curative. È il miglior rimedio contro la cattiva memoria. Ecco, se vi capita di passare per Quadraro, se vi capita, ricordate. Dunque tutto incominciò alle 5 del mattino del 17 aprile 44. Erano le 5 di mattina e mio padre si svegliava perché doveva andare al lavoro. Nel frattempo sente dei rumori, erano dei passi, ma passi pesanti, non passi di una persona, passi pesanti. E poi lì hanno cominciato a battere sul portone, adesso lì che è successo il guaio, che sono entrati con la forza, ma la mente non si è salvato nessuno. Entrarono in azione queste SS che spaccarono cancelli, spaccarono tutto quello che gli si presentava davanti a modi di resistenza, buttavano giù tutto quella mattina. Vi lascio immaginare quello che è successo nelle nostre famiglie. Bambini che urlavano, piangevano, le donne che strillavano, si mettevano le mani nei capelli, Noi ragazzini tutti attaccati addosso a mio padre ci hanno preso a spintoni. Poi dopo noi siamo andati, abbiamo seguito fino fuori il cancello di casa. Andavano pure i sportelli della stagliera e d'armati. Andavano a vedere sotto al letto. A me non mi hanno preso a casa perché io sono saltato dalla finestra e sono fuggito via degli Alvari, ho fatto quasi 400 metri, 300 metri. C'era mio fratellino che ci aveva, era del 30, del 38, era piccolo e non volevo fare del male alla mamma e al cuore, ho preso, abbiamo aperto e via. Sono uscito subito con loro e mi hanno preso e non ho fatto resistenze. E chiedono quanti uomini ci sono dentro casa. E mio padre gli risponde, io. E loro cominciano a guardare, ma tanto c'era poco da guardare perché stavamo, si fermava tutto lì. Ci dà sto foglietto, un foglietto in mano e ce lo fa leggere. Gli uomini di questo quartiere, dei quali la presenza non è necessaria per la vita della città, saranno richiamati per il servizio del lavoro. Tutti gli uomini dai 16 ai 55 anni devono seguirci. È da portare documenti personali, scodella, possibilmente infrangibile, biancheria e viveri. Per fare i bagagli sono concessi non più di 10 minuti. Tutta la popolazione non deve lasciare le loro abitazioni. Ad ognuno che viene trovato per strada sarà sparato. Sverto! C'hai 10 minuti. Già due sono passati per leggere l'avviso. Altri due sono passati per digerirlo. Tre per dar un bacio al pupo, tranquillizza a tua moglie, fa una carezza a tua madre. E altri tre per racimolare tu stracci. Sì, ma che te porti se non sai dove devi andare, quanto starai? Un pezzo di pane. Un pomodoro. Un po' d'acqua. Una maglia pesante. A aprile? No, una cosa sola ti serve. Un paro di scarpe buone. Perché se c'è le scarpe vanno in giro a cercare da mangiare, mentre l'inverso non vale. E poi se c'è da correre, corri veloce. Oppure te porti... Sisto! Portate sto trench! Sulla via... Su questa via Pietro Cuppari trovai tutti i miei amici, allora erano sedicenni, diciottenni, ventenni, tutti con le mani in testa e con la faccia rivolta verso il muro. Quello che stava sotto a noi, che ha fatto? Si è messo tra due materazzi, ci si sono messi tutti i figli sopra a rischio di rimanere soffocato. Non se ne sono accorti e si sono andati, è rimasto a casa. Quello di dietro, il padre Morello stava su una carrozzina e gli avevano amputato una gamba. Con tutto ciò se lo sono portato via. Il figlio di 18 anni l'hanno portato via. Io immagino coraggio là dentro. Ha paura, insomma, che ci aveva con questo fuori lì, col mitra sempre spianato. La peggio cosa è la maniera di portarli fuori, con prepotenza, con cose buttate addosso a quel muro del coso. E poi sentivamo dire che dovevano fuggire a tutti. Io ancora mi sento... le grida, gli urli di loro, che poi il caso più straziante era quando che noi ci hanno portato via con i camion da dove abitavamo al cinema Quadraro, abbiamo attraversato tutto il Quadraro e durante questo tragitto sentivamo dentro le case piange, urla, strilli, perché questi mascalzoni su quel foglio, non so se l'avete letto, quel foglio hanno dato ordine che nessuno deve uscire dalle case, altrimenti sarebbe stato sparato. Quindi queste donne sono state tappate dentro casa con il loro dolore, senza neanche averci la soddisfazione di salutarci. Mi ricordo di Giorgio, un ragazzo che aveva 15 anni, che è stato portato via anche lui, e la mamma urlava perché diceva, insomma, è un ragazzino, è piccolo, dove lo portate? Invece questi hanno acchiappato. Sono portato via. E sta Morella, tutti i giorni che ha fatto Dio, lei a casa non ci poteva stare più perché non trovava sto figlio. Andava cercando il figlio. Lei era convinta che l'avrebbe ritrovato. Lei faceva sempre su e giù, ma lei in continuazione chiamava Giorgio, dove stai? Giorgio. Lei aveva la speranza da trovarlo. Non si rendeva conto che questo ragazzino invece era stato portato via, lontano. Ma certo che ti rimane la rabbia, ti rimane ogni anno che passa, tu per quanto che dici ormai sono passati 65 anni, ma il ricordo è quello. Cioè tu sei privata di una persona che sta dentro casa con te, non l'accetti. E ogni volta che passa il tempo è sempre quello il ricordo. Eravamo impietriti, no? Tra ricordarli è una cosa trasparente. Oh, aiuto! Ma che state a fare? Ma dove li portate? Ma dove state a portare? Lasciateli! Ma non è possibile! Lasciateli! Ma che volete da noi? A pensare che il cinema una volta era un luogo di piacere. Al venerdì, due firme per 11 sordi. Le coppiette scippavano qualche bacio e tutti in coro leggevamo i nomi degli attori. Oh, era un vizio. Harry Fonda, Cary Grant, Humphrey Bogart, Laurence Olivier. Nome? Emanuele. Cognome? Ci deve essere un disguido, eh. Cognome? Guardi che io sono sempre stato a favore perché... Cognome? Ceccotti. Età? 28. Professione? Lavoro al cinema, faccio la comparsa. Idoneo. Nome? Giorgio. Cognome? Giovannoni. Età? 15. Professione? Ma lasciata andare, un ragazzino! Professione? Figlio. Idoneo. Nome? Sisto. Cognome? 40. Cognome? De cognome faccio 40. Età? 30. Professione? Sono elettricista, ma posso pure fa... Idoneo. Idoneo. Ma che vorrà dire? È un bene o un male? Ah, forse a chi non è idoneo gli sparano. I fascisti ce l'hanno per vizio che se uno non gli piace fisicamente tu manano al creatore. Io invece sono idoneo. Suona come una cosa buona. E invece no. Non è buona manco per niente. Ai non idonei li rimandano a casa. A noi invece ci portano agli studi di Cinecittà. Teatro de Posa numero 10. Ma no, a fan firme. Una volta tutto il quartiere lavorava qui come comparsa per il Colossal. Scipione africano. Facciamo i soldati. Mo ci tengono prigionieri ammassati, senza acqua, senza mozzico di pane. Marco! Papà! Marco! Marco! Daniele! Papà! Giorgio! Fabrizio! Federico! Giorgio! Federico! Sisto! De giorno e de notte sentimo gli strilli delle donne nostre che ci chiamano da fuori i cancelli. Fanno l'appello per sentire se siamo vivi. Ma noi non potemo rispondere. C'è un'ermitra puntata alla fronte. Ogni tanto mi pare di riconoscere la voce di mia madre. Ma pure a quello che si chiama come me gli pare di riconoscere la voce della madre sua. E le voci delle madri disperate sono tutte uguali. Ci spingono su un camion e ci fanno uscire. C'è tutto il quadraro sul piazzale. È un fiume di gente che cerca un parente. Ma saranno 3-4 secondi d'aria. Con gli occhi miei girano da tutte le parti come dentro un flipper. E lì, in mezzo, pesco mia madre. Quel visetto piccolo, col mento infilato tra mille spalle. Col tedesco di fianco non posso mancarsi una mano. Quando ho vista non ho fatto niente. E in uno sguardo solo ci dovevo mettere troppe cose. Cercavamo di andare lì a Cinecittà per vedere se potevamo vedere qualcuno. Invece quando era il terzo giorno, mi pare che stavate lì. Il secondo o terzo giorno. Vediamo uscire le macchine con tutti questi deportati, questi che avevano preso e portati via. Il camion, cioè, era alto 70-80 centimetri, non dovevamo stare sotto per non far vedere che c'erano persone sul camion. A salutarli te, che quelli infilano dentro a Cinecittà, dentro gli stabilimenti, hanno messo i cambi, tu non vedevi niente. E allora tutta sta gente che stava lì a guardare, tutto un botto si vedono spalancati tutti questi cancelli, tutti questi cambi, uno a fila un altro, uno a fila un altro, che con tutti questi uomini sopra che li portavano via. Io mi ricordo sempre, mio padre stava così, stava davanti, così stava, tutto un pettito così. Noi stavamo lì, io a chiamarlo papà, papà, e lui non è che si potevano muovere tanto, col... appena appena dato uno sguardo, ci ha dato uno sguardo così e ci ha fatto così con la mano. E da quel momento, dopo una settimana, abbiamo saputo che stavano a Fossoli. Ma SS che vorrà di? SS? Sarò stronzo? Ma dove stiamo? Dai parti de Grotta Rossa. Che ha detto? Aspetta, aspetta. Dice che tre di noi sono scappati. E se non li ritrovano entro 10 minuti, fucilano i primi 20. 4, 5, 6, 7, 8. Quanti ce ne abbiamo davanti? Una trentina. Siamo sarvi. Ma dove li porteranno? E perché se li so presi? Io non me do pace. E chi lo sa? Qui non te può manco azzardare a chiede. Dice che le SS cercavano il nido di vespe. Ribelli, comunisti, partigiani. E qualcuno l'hanno trovato. Altri si sono salvati perché erano nascosti dentro il sanatorio Ramazzini. I tedeschi lì non ci sono entrati per paura d'attaccasse la tubercolosi. Nido di vespe. Ma mio papà non sa neanche che vuol dire comunista. Certo, i tedeschi non gli piacevano, ma faceva casa e bottega, figuriamoci se ci aveva tempo per pensare alla politica. Hanno preso gente a caso. Le creature, se no, che c'entravano? E mo che dice? Ci danno altri 10 minuti. Ma se non escono fuori, fucilano i primi 40. 10, 11, 12, 13. Che 14. Te conti? Ci rientriamo. I figli di quella dell'ultimo piano si sono salvati. Li ha infilati dentro i cassoni dell'acqua a rischio di farli morire affogati. Io dalla finestra ho visto il vicino sotto al lavatoio che i tedeschi l'hanno sfiorato con la baionetta dentro l'acqua saponata. E Giuseppe? Giuseppe l'ha scampata perché col carcio del mitra gli hanno rotto un braccio ed è finito al pronto soccorso. Oh, avete saputo de Fortunato? È riuscito a scappare da Cinecittà. Poi ci ha avuto i sensi di colpa perché aveva lasciato dentro il fratello, ma non è più riuscito a entrare. Mo è disperato. Ho saputo che il parroco ha nascosto qualcuno in sacrestia. Lo dovrebbero fare santo. Shh, che qui pure l'aria c'ha orecchi. Qui ci ammazzano tutti. Zitto. Io non voglio morire. Zitto. Qui ci ammazzano tutti. Sta cava de Pozzolana è stretta e buia. E sta nottata non passa mai. Sento piagne e frignate ogni lato, pure li peggio bulli del Quadraro, che sembra di essere finiti a reparto neonatale. So certo che ce mitraglieranno, ce faranno fa la fine di quelli alle fosse ardeatine. Invece per contrordine riusciamo a vedere l'alba. Ce mettono su un treno, come bestiame. Al campo dei Fossoli, noi del Quadraro siamo 947. In tutto il campo saremo qualche migliaio. Ce rasano a zero, ce docciano, ce cuciono il numero di matricola in triangolo. All'ebrei giallo, agli stranieri blu e ai prigionieri politici rosso. Siamo una macchia d'arlecchino dentro tutto sto nero. Ce danno una baracca, un letto de paia, purci e pidocchi. E ogni tanto ci disinfestano. Siamo numeri, numeri che camminano, con addosso la puzza delle cimici cotte dentro l'autoclave. Ci fanno fare le cose più inutili, tipo spostare una pila di mattoni da una parte all'altra del campo, così tanto per sfinicce, tanto per umiliacce. Pesiamo quanto un filo d'erba, quanto uno spettro, che una balla di paia la dovemmo portare in quattro. Poi c'è sta una guardia. Che quando dormimo, si diverte a tirarci sulle ossa la catena e il lucchetto con cui ci chiude dentro. L'appello? L'appello è un incubo. Facevano l'appello e un paio di volte qualcuno non ha risposto all'appello. L'hanno fucilato. Come tutte le sere ci facevano l'appello per contarci, ci fu un ebreo anzianotto che aveva probabilmente le ginocchia come ce l'ho io adesso. E allora questi arrabbiati che stridavano appello, appello, appello, questo poveretto che stava un po' lontano, piano piano, piano piano, piano piano, veniva verso l'appello. Questi erano due SS giovanissimi, erano. Se siamo dovuti imparare i numeri in tedesco, perché loro lo facevano in tedesco. Quando vide questo uomo che barcollando arrivava, estrasse la pistola dalla fondina del suo amico, manco dalla sua, come gli arrivò vicino, boom, mi dette la botta qui, lo prese secco. E malgrado che questo stava per terra morto, con noi testimoni che tutti quanti lì, loro si fidarono a contare. Dopo la conta dettero ordine ai suoi amici ebrei di prenderlo e portarlo dove volevano loro. Il numero mio in tedesco era 9 6 9 no 6 6 2 7 7 2 7. Ah, morì! Psst! Morì! Che vuoi? Oh, son Mario, spizzichino. Mi fa piacere. Da dove vieni? Dal Quadraro. Ah, bello quel trench. Perché non muovo, venni? Ma che sei matto, c'ho solo questo. Te do 3 lire. Non è. E sì, buono, morì. Te tanto te la cavi. A voi politici vi rimandano a Roma, so sicuro. A noi ebrei invece ci portano in Germania. E lì è freddo serio. Guarda che qui non si salva nessuno. Psst! Morì! Hai visto quello lì? Ma chi? Quello lì che entra la mattina a venire il castagnaccio. Una porzione, una lira. E io te do 3 lire. Oh, a spizzichi. Stammi lontano che già solo a chiamarti per nome a me mi sale la fame. E poi si ci beccano che parliamo. E io ho preso tanti di quei sganazzoni, manco ve li immaginate. Una volta perché cascai una balla di paglia, un'altra volta perché non mi ero accorto che passava il maresciallo insieme a un SS e io non mi alzai, non feci in tempo alzarmi. Mi detto, sganazzoni ancora per girare adesso adesso. Uno di questi mi buttò il cappello per terra e mentre raccoglievo il cappello mi ha dato un calcio in culo e mi ha buttato per terra. E io devo dire grazie che non mi hai fatto male. Lì come se si parlava, che ti faccio io una sera, aveva piovuto, mi ero bagnato tutto e mi sono messo dentro alla branda. Ho bagnato le lenzuola. Per dormire, si è accorta che è il capogruppo, che avevo bagnato le lezioni, mi ha preso, mi ha fatto mettere in ginocchio di fuori la camerata, mi ha dato 6 nerpate che venivano con tubo con i pezzi di tubi di gomma. Sei nervato, mi dite. E tu stai là dentro, tu non sei nessuno, sei una nullità. Le posso dire di più. La vita qui vale, no? Se uno ha un incidente, il più ne morivano, il meglio era. Tutti avevamo la sensazione di non tornare a casa. La sopravvivenza ti aiuta a far tutto pur di riuscire a superare. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerla tu? Vieni, c'è una strada nel bosco che tocca fa per magnà. Per guadagnarmi ste patate ho dovuto cantare per i tedeschi. Ste facciacce grasse, con i peli gialli, con sti sorrisi fuori posto, che te sembrano mozzichi. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerla tu? Vieni, c'è una strada nel bosco. A gara sono arrivato terzo, una patata era pure marcia. Al secondo gli hanno dato 10 sigari, al primo 2 pacchetti di sigarette. Ma a me che mi frega, io fumo lo stesso. Mi magno la polpa, abbrustolisco la buccia, giro la carta del giornale e aspiro. Sa di inchiostro, cemento e terra. Ma quanto è buona quella sensazione di stordimento. Sparisce ogni pensiero, arriva la nebbia e per qualche minuto sto sereno. Se fumava tutto, che compreso io, la carta dei giornali, la carta dei basta se intucinava qualunque cosa, se fumava tutto. Ma mangiare le bucce di patate o le patate era un lusso. Io sono stato un anno e mezzo a mangiare rape, acqua e rape, acqua e rape, acqua e rape. Mangiavo, ogni tanto mangiavo le patate perché di notte, insieme ad un mio amico, passavamo sotto i reticolati, andavamo per le campagne e rubavamo le patate. Andavamo per patate e io ho rimediato le patate e me le mangiavo o col zucchero, che il zucchero si trovava lì, magari zucchero, marmellata si trovava. Ma te mangiavi tutto, ma mangiavi pure se trovavi patate in mezzo agli escrementi di qualunque genere. Io con altri tre siamo stati presi con le mani nel sacco e pensavamo che era la fine. E infatti ci portarono, così come ci trovavamo, in 2 chilometri circa dal campo di concentramento, che era una residenza particolare, e lì pensavamo che forse ci fucilavano lì, non potendolo fare dentro il campo. E invece tutta la notte siamo stati aspettando perché sentivamo dei passi che si avvicinavano, poi si allontanavano, ogni volta pensavamo è l'ora buona. Invece poi la mattina ci dissero raus, arbeit, al lavoro. Psst, amore, psst. Ciao Spizzichi. Non m'hai detto come ti chiami? Non m'hai chiesto. Allora, mo venni quel trench? No, no. Non è per cattiveria, che poi non... Quanto hai detto che mi davi? 3 lire. No, scordatelo. Certo, 3 lire sono 6 giorni di castagnaccio. Spizzichi? Ci hai ripensato, amore? Ci ho pensato, sì, non penso altro. Tiè, piede sto trench. Mi pentirò d'aver ceduto a sta tentazione, io lo so. Amore, dove portano a me, il freddo c'ha più unghie del demonio. Thank you. che vivete sicuri nelle vostre tiepide case. Voi che trovate, tornando la sera, il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce la pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì e per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. Dove ci portano? Io so solo che casa mia sta a sud e sti camion puntano a nord. Shh, zitti un po'. Ma che sono sti rumori? Sarà un'imboscata dei partigiani, magari che ci vengono a salvà. Ma che? È la gente del paese. Ci tirano i sassi addosso. Ci insultano, ci sputano. Ma come, oltre che prigionieri, siamo pure infami. No, non ci credo. Essere trattati così da fratelli italiani. Ecco perché. Sul camion nostro c'è stata scritta gigante della peggio infamia. Cioè? Lavoratori volontari per la Germania. Volontari? Ma che ci portano in Germania? Eravamo tanto volontari, eravamo tanto liberi che dentro ogni pullman c'erano tre tedeschi armati. Due di dietro e uno davanti all'autista, vicino all'autista. Sempre pronti a spararci se noi facevamo qualche cosa che non andava. Perché eravamo liberi, eravamo volontari, capito? In Polonia arrivavamo a Ratibor. A un certo punto ci eravamo impalati lì in mezzo e vedemmo arrivare un gruppo di una quindicina, una ventina di nazisti, di signori tutti belli, incravattati, tutti acchittati, con delle svastiche qui al petto che non finiva mai. E noi ci domandiamo, e questi chi sono? Che vengono a fare? Praticamente quelli venivano a comprarci e noi quella mattina fummo venduti. Una volta venduti, venimmo presi a gruppi e portati nelle più disparate fabbriche della Germania, da est a ovest, da nord a sud. Siamo andati a finire in tutte le parti della Germania. Ma comprata la ditta Siemens, metto cavi elettrici. Dal campo alla fabbrica sono 3 chilometri a Na e 3 a tornare sotto la neve, con addosso soltanto i zoccoli da mare e una camicia di tela. Che Peppa dimmi nel freddo, me ci infilo pure le buste del cemento. Taglio l'albero secolari tra la linea Siegfriedo e la linea Maginot. Ci fanno lavorare troppo vicini, così quando l'albero cade, qualcuno dalla parte della chioma muore. Nel tragitto dal campo al bosco, trovamo le mele per terra, si scecaschia a ricogliere e rompi la fila so bastonate. Che le ci mettono apposta? Si divertono così sti tedeschi. Surfato, bisurfato, ammoniaca. Io sono finito in una fabbrica chimica, maneggio l'acido senza protezione. Sto composto serve a fare la bomba atomica. La beffa sapete qual è? Che me pagano. Ma poi i sordi devo ridare al campo di concentramento per pagarmi il vitto e l'alloggio. Si divertono così sti tedeschi. La fame ti fa diventare matto i primi 15 giorni. Dopo non senti più fame. Viene la bulia, viene la fine. Io vorrei dire a questa gente che non vuole sentire questa parola olocausto, vorrei dire perché non vi siete solo trovati quella mattina del 17 aprile 44 dove stavo io, che mi hanno portato via, mi hanno affamato, mi hanno dato un sacco di botte, mi hanno ridotto peggio delle bestie. E quello non è olocausto. Se la parola olocausto vuol dire sacrificio, e noi ne abbiamo fatti i sacrifici, anche perché non è detto che Chiamare olocausto significa per forza morire. No, anche se poi vogliamo mettere questo, ci sono stati molti di noi che non sono più tornati al Quadraro. Molti di noi che non sono più tornati nelle loro famiglie. E non è olocausto questo. Pensare con una madre, una sorella e un fratello. Ma pensavo che pure alle volte guardavo le stelle, le stesse stelle, se mia madre le vede pure lei. Ma come no, come fai a non pensare? Io ci pensavo. Giorgio, che avete visto Giorgio? È Arto per l'età sua. Bello, snello, con due occhi celesti come laghetti. Gli piace giocare a Nizza, che è talmente bravo che magari l'ha lanciata troppo lontano e non ritrova la strada. L'avete visto? Ricordatevi bene, che di sicuro l'avete visto. È uno snello, bello, e il naso dritto, oh, ce se fa caso. Stava là in fondo e ha detto: "Amà, io ritorno". Quando si sono portati gli astomini, le famiglie? Quello ci devi mettere, le famiglie. Perché mia madre è rimasta con 6 figli, da 15 a 2 anni. Allora, se partiva la mattina per andare a lavorare, non dovevamo rimanere soli. Cioè, io uscivo da scuola, io a 10 anni uscivo da scuola, andavo al mercato ad aiutare mia madre. Mi incollavo le ceste di un quintale all'epoca, perché allora gli chiamavano quintini, erano ceste grosse così e portavano un quintale di pomodori. È un disastro perché non lavoravamo nessuno, lavorava mio padre solamente. È stato un guaio con l'assistenza, che uno si arrangiava. E facevamo la fila lì e andavamo presto la mattina a prendere i posti, ci mettevamo tutti i barattoli. Qui ci sto io. Allora, io so prima, vabbè. Comunque, entravamo tutti perché poi... Via delle varie, sì, che andavano lì, che andavano lì per prendere la minestra e roba. Cucinavi col carbone, addirittura eravamo costretti che quando si cucinava, se per dire oggi accendevo il fuoco io, il giorno dopo l'accendeva la vicina, perché si scambiavano, di modo che non si consumava il carbone. E c'era paura di tutto. Se non una ne arrivava dal punto che non si fidava più di nessuno. Ah, oh! Ad acceso il fuoco! Che abbiamo rimediato oggi. Papaveri d'Alessà. Cicoria da tostare. Così se famo un caffè. Io devo fare un po' di sapone. Mi servono ossa di maiale, acqua, soda caustica. E mettici un po' di rosmarino per dargli profumo. Rosa non scenne. È andata dalla Meggera a chiedere quando torna suo fratello. Quella gli dirà che torna presto. Così Rosa ci ritorna per sapere la data. E quanto gli è costo ogni volta ricontratta la sorte con le carte? Un pacco di sale. Ma non è meglio usarlo per dare sapore alla minestra? Per me il risveglio la mattina è il momento più atroce. Quando t'accorgi che è tutto vero. Prima o poi finirà. Per tirare a campare non ci si deve pensare. Si dice che soltanto i morti hanno visto la fine della guerra. A noi ci sono rimaste le vacche, ma non gli animali magari, e macchie. Se stringiamo talmente tanto a tornare fuoco che le gambe sono piene di chiazze rosse. Ai bombardamenti filiamo dentro le buche dell'orto e se coprimo con le frasche. Oppure se rintaniamo come topi nelle gallerie sotto l'ospedale Ramazzini. Qualcuno lì dentro ci si è portato il letto, non esce più. Così dice, non gli rubano il posto. Ci fa paura ogni rumore, pure il suono del pianoforte. Non si riesce più a pensare che è una musica dolce. Mentre che il boia de Kappler tortura gli prigionieri, e il tedesco vicino suona i tasti. Sona. Prima forte, poi più piano. Certe arie che da fuori son sollievo, invece servono per coprire le urla e lo strazio. Se fidiamo solo delle note delle sirene, ma no quelle che te incantano, quelle che te svegliano. 22 giugno del 45, siccome che in quel campo ci davano una sveglia tramite un campanaccio che suonava, quella mattina del 22 non sentimmo questo campanaccio. Allora ci preoccupammo pure un po', tra l'altro, perché non suona? Ma come? Ma perché? Ma non ci davano, ma nessuno usciva dalla baracca per paura di qualche rappresaglia che facevano questi mascalzoni. Invece che era successo? Che gli americani erano arrivati a 2-3 chilometri da noi. Il capocampo, con tutti i suoi accoliti, si drittero a gambe e scapparono. Quindi quando i primi di noi uscimmo dalla baracca a vedere che era successo, con nostra grande meraviglia, ci trovavamo liberi. E ci stavano i tedeschi che stavano lì al campo, si sono avvertite così, non gli altri liberi, e loro liberi, cioè. Nella liberazione io ho fatto una grande... mi sono vendicato un po' di tutto. La prima cosa che ho fatto, ero ragazzetto, non avevo mai avuto una bicicletta. La prima cosa che feci, mi procurai una bicicletta. Con questa bicicletta sono venuto in Italia. Ben sapendo, guarda, che quel treno ci riportava a casa, però mi fece un arresto quasi cardiaco a rivedere quei vagoni in quella maniera. Invece quei vagoni all'andata erano sbrancati, erano chiusi, lì invece li trovavamo con le porte aperte. All'andata la motrice del treno era rivolta verso nord, invece questo c'aveva la motrice rivolta verso sud, al che voleva dire Italia, al che voleva dire Roma, al che voleva dire Quadraro. Da Portonaccio, quando sono venuto a stazione per prendere il tram, non mi avevo entrato il tram, perché guarda, noi veniamo, eravamo 3-4 così, veniamo da Germania, faccio contare, via D'Azeglio, c'era un tramvetto che veniva a Quadraro, e dice no, mi posso far montare, faccio montare, ti do i marchi, ho qualche marco, qualche soldo così. E così devo ritornare a casa. Come sono ritornato a casa, la prima cosa che mi hanno detto per strada, guarda, vai subito in chiesa a dire che eri ritornato, che hanno detto che eri morto, gli hanno detto a mia madre era morto, che poi è morta a manicomio mia madre. Il giorno di San Giovanni ti vedo in cima alla salita sto fuscello d'uomo che barcolla. Gli sono saltata al collo dalla gioia. La prima cosa che mi ha detto: oh, non farmi mai più vedere patate. Mio fratello quasi non lo riconoscevo. Gli so cascati i capelli e quelli che gli rimangono so bianchi candidi. Mamma dice che è la tinteggiatura della paura. Mio marito pesa 33 kg. Ho riconosciuto la voce sul tram e il controllore gli voleva fare la multa perché non c'aveva il biglietto. Gli ho dato tanti dei quei baci, uno per ognuno di quelli che non sono tornati. Pochi anni fa io ebbi l'occasione di andare ad Auschwitz, che mi hanno raccontato, qui arrivavano gli ebrei, li facevano spogliare, gli facevano attaccare i panni qui, poi gli dicevano di legarsi le scarpe con i lacci per paura che quando riuscivano trovavano le scarpe disuguali. Per evitare tutto questo le facevano legare con i lacci, anche per dargli una parvenza di vero che li facevano liberi, li lasciavano liberi. Ebbene, io in quel momento, quella mattina, quando quello mi diceva qui attaccavano i panni, io ho rivisto idealmente il mio trench, pensando a Spizzichino. Sì. così è stato.